l'odio è una parte di me che mi fa riflettere. Ogni volta che l'amore mi fa male, io odio. Ogni volta che ci sto per ricadere, io odio. Tentato far pace con tutti, io odio anche quando si festeggia il Natale, io odio. Anche se da sempre